Italia in controluce. Siamo dunque giunti alla seconda puntata, l'ultima della settimana di Italia in controluce, dedicata al reportage, all'informazione, all'approfondimento della redazione di Radio 24, un programma coordinato e condotto da Daniele Biacchese. Oggi è venerdì e come ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci per il consueto appuntamento, il focus su Scuola in controluce. Scuola in controluce. Le scuole primarie e secondarie di primo grado, le elementari e le medie, tanto per capirci, sono la vigilia di un importante cambiamento. Una legge varata dal governo precedente, infatti, ha previsto che si accorpino, si trasformino in istituti comprensivi, quindi che ogni primaria sia associata ad una media, una sola segreteria, un solo dirigente scolastico. Questo già dal prossimo anno scolastico. Il MIUR aveva previsto che con questa operazione avremmo avuto 1.300 istituzioni in meno, con un notevole risparmio. A che punto siamo? Le regioni hanno applicato la legge? Tracciamo il quadro con Orazio Niceforo di Tutto Scuola. La norma è stata applicata correttamente da alcune regioni, mentre in altre regioni, in particolare in Campania e in Sicilia, ci sono molte resistenze. Se dovessimo dare dei numeri, quante scuole a questo punto sono diventate istituti comprensivi rispetto a prima? 4.775 saranno gli istituti comprensivi su 6.159. Quindi il 77%. E c'è stato un notevole, per come vanno le cose in Italia, insomma, un notevole balzo in avanti, perché nel 2011-2012 erano il 57%, quindi 20% in più. Possiamo stimare anche quanti presidi siano saltati a questo punto? Eh sì, nelle scuole medie 592, nelle scuole elementari circa 900. Quindi dicevamo, alcune regioni si sono messe, diciamo, in regola, altre hanno fatto più resistenza, in particolare citava Campania e Sicilia. Ecco, invece però 5 regioni hanno fatto quello che dovevano e anche qualcosa di più addirittura. Quali sono? La Lombardia, il Lazio, la Toscana, la Liguria e le Marche. Ecco, in queste 5 regioni sono state soppresse 87 sedi, più di quelle che in base alla legge avrebbero dovuto sopprimere, quindi sono state più realiste del re. Le regioni hanno approfittato per fare un po' di economia, insomma. Sì. Invece Sicilia e Campania all'opposto non hanno fatto economia. Ecco. Hanno fatto, e qui hanno giocato dei fattori culturali, insomma. Ecco. Cioè due paesi vicini che non, aventi entrambi due scuole che però non raggiungevano un numero sufficiente per essere una scuola autonoma, non si sono messi d'accordo per chi doveva essere la scuola principale, diciamo, quella con la presidenza e la segreteria. Sì, magari una scuola elementare da una parte e una scuola media dall'altra, dovendo fare un unico istituto comprensivo e dovendo scegliere dove ha sede, nascevano problemi, insomma, che di campanile. Campanile che la regione evidentemente non aveva l'autorevolezza per sciogliere. Ecco. Anche perché le regioni in realtà non rischiano nulla. Una situazione in cui c'è un soggetto che paga e un altro che gestisce e decide, insomma. Il primo sarebbe il governo, il secondo sarebbero le regioni. Sì, prendono le decisioni senza tener conto del fatto che poi è un altro soggetto che dovrà intervenire per tirar fuori i soldi in questo caso, e che è lo Stato. Dunque le regioni si sono date da fare, non tutte però con gli stessi risultati. Campania e Sicilia stentano ad attuare quanto stabilito dal governo. In Campania in particolare l'assessore all'istruzione Caterina Miraglia, la sentiremo fra un attimo, ci spiega che il piano di riassetto e risparmio va avanti. Già quest'anno sono state soppresse 150 autonomie scolastiche. Non raggiungevano infatti il numero di studenti necessario, numero che per le altre regioni è stato fissato a 1.000 studenti come minimo. Per la Campania invece è stato abbassato a 600. Il prossimo anno ne verranno soppresse altre 135 e per quanto riguarda invece gli istituti comprensivi ne sono stati creati 180. Non ancora abbastanza, ma non si poteva fare di più, ci spiega Caterina Miraglia. Se lei immagina che in una realtà dove economicamente la situazione è delicata e difficile, no? Togliere più della metà, come lei ha compreso, di autonomie scolastiche è un trauma. Cioè la Regione Campania, per non traumatizzare troppo, quindi lei parla degli ATA, dei bidelli, diciamo così, anziché attestarsi sul rapporto a 1000, si è attestato sul rapporto a 600. Chiaro? E quindi ha contenuto il dolore, diciamo così, del 30%, che non è poco. Si è avuto un occhio di riguardo. Se lo intendiamo, dice una pace sociale, diciamo la verità, un sistema un po' meno traumatizzante per la Regione Campania, che fonda molto sull'impiego pubblico, parliamoci con franchezza, noi abbiamo chissà quante imprese. Quindi insomma un occhio di riguardo tenendo presente il contesto. Ecco, però qualcuno dice forse si poteva comunque fare di più, io ho sentito anche... No, guardi, noi siamo stati francamente assolutamente lodati, perché nessuno pensava che ce la facessimo a chiudere 150 autonomie. Lei ha idea di che cosa significa contrarre 150 autonomie in un momento disastroso? Perché il momento è disastroso per tutta Italia, ma nella Regione Campania agire sulla scuola è ancora più delicato, no? Ma sono stati tagliati dei posti o tutti sono stati ricollocati? No, tagliati dei posti e tutti ricollocati, questo no, tutti ricollocati, non c'è nessuno che abbia perso posto. Questa dunque è la situazione difficile in Campania, un'operazione questa dell'istituzione degli istituti comprensivi che farà risparmiare sul numero dei dirigenti scolastici che vedono così ridisegnare anche il proprio ruolo. Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Giorgio Rembado. Io dico due cose, che intanto ci si dovrà occupare molto di più di gestione del personale e molto di meno di coordinamento della didattica. In secondo luogo, che i compiti che tradizionalmente il preside aveva a suo carico dovranno essere gestiti attraverso il personale di collaborazione alla presidenza, e quindi ecco perché parlavo di meta direzione, cioè di una direzione attraverso altre persone, attraverso figure intermedie di collaborazione. Ma come state vivendo in questo periodo questo momento di passaggio? C'è inquietudine insomma fra i suoi colleghi presidi, o comunque può essere anche un'occasione forse per voi per rivedere il vostro ruolo? Per certi versi possono essere vere entrambe le dimensioni del problema, nel senso che sicuramente è un modo per rivedere il ruolo, il profilo del dirigente, non c'è dubbio, ma è anche vero che c'è anche un profondo malessere da parte della categoria, che si vede ogni volta di più caricata di nuove responsabilità e di nuovi compiti senza alcun riconoscimento di tipo né professionale né retributivo e così via. Questa dunque è la fotografia quando siamo ormai a 2 mesi e mezzo dalla conclusione dell'anno scolastico. 3/4 delle scuole primarie e medie saranno da settembre istituti comprensivi. Un bene comunque per gli studenti, secondo Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Gli istituti comprensivi daranno, secondo noi, abbiamo dei risultati in questo senso, un contributo positivo, nel senso che quello che abbiamo osservato è che i ragazzi che provengono da istituti comprensivi ottengono dei risultati migliori nei test invalsi di terza media rispetto a quelli che invece vengono da scuole medie isolate. Diciamo che la riforma probabilmente nasce con finalità diverse, che sono essenzialmente di risparmio, però come ogni tanto succede, se l'obiettivo è quello di tagliare, secondo noi dal punto di vista pedagogico e didattico la cosa potrebbe funzionare bene. Perché? Qual è il vantaggio? Il vantaggio è la continuità. Uno dei problemi che è tipico della scuola italiana è che nel passaggio dall'elementare alle medie è molto brusco, nessun altro paese è così brusco, quindi si passa da appunto una scuola accogliente come la scuola media, come la scuola elementare, a una scuola media che è sostanzialmente modellata come le scuole superiori. l'istituto comprensivo permette di attenuare questo passaggio, perché ci sono le commissioni di continuità, perché ci sono minori steccati fra gli insegnanti della scuola elementare e quelli della scuola media, perché sostanzialmente si possono pensare nei casi di eccellenza ai curriculum verticali, si possono già l'ultimo anno di elementari fare dei progettazione scolastica mista, per tutta una serie di buona gestione della scuola che l'istituto comprensivo facilita. E che presidi si dovranno però abituare anche a proporre? Assolutamente sì, ma appunto già in alcuni casi lo fanno, nel senso che esattamente come dicevo i nostri risultati dimostrano che c'è un vantaggio dal punto di vista dei risultati invalsi a provenire da un istituto comprensivo. È chiaro che poi molto dipende, come sempre nel mondo della scuola, dalla qualità degli insegnanti e del dirigente scolastico. Era Italia in Controluce, Piera Ceci con Scuola in Controluce, seconda edizione, questa come tutte le altre puntate in podcast su radio24.it. Torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.